Fuori io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. MT 12.36. Questa affermazione di Gesù non può essere ignorata, perché noi parliamo ogni giorno e in ogni momento, e se dovessimo rendere conto del nostro parlare, temo che forse tutti ne usciremmo molto male, poiché l'aggettivo oziosa riferito alla parola può essere frainteso, ho guardato varie versioni. Alcune hanno tradotto parola detta fuori posto, oppure parole vane o parole inutili, e infine parole infondate. Così gli uomini renderanno conto a Dio delle parole dette fuori posto, inutili, infondate, vane o oziose. E, risaputo che il lemma parola è tradotto da due termini greci, uno dei quali è logos, l'altro è rema. Mentre il termine logos ha il significato di annuncio, messaggio, il termine rema ha il senso di rivelazione. Così, l'affermazione di Gesù ha il seguente significato: or io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni rivelazione fuori posto, inutile, infondata, vana o oziosa, meno che avranno detta. Fatta questa premessa, vediamo l'affermazione di Gesù calata nella nostra vita. Ognuno di noi ha il proprio rapporto con il suo Dio. Ho detto il suo Dio e non che ha il proprio rapporto con Dio, perché questa affermazione presuppone che tutti abbiamo lo stesso Dio. Ma non è così. Infatti, per quanto se ne dica, cristianesimo, induismo e islamismo non hanno lo stesso Dio. Ma neppure in seno alla stessa denominazione religiosa a volte si crede nello stesso Dio. Ne sono un esempio i valdesi, i quali, benché protestanti, non hanno la fede comune a molti altri protestanti. In effetti, in un loro periodico rappresentativo intitolato Riforma, un articolista nel commentare l'uscita del libro Gesù e Maometto, scritto da un ex musulmano diventato teologo cristiano dopo aver preso atto del rigoroso lavoro, commenta dicendo: non pensiamo che il dialogo con l'islamismo vada fatto dicendo che Cristo è migliore di Maometto, ma semplicemente dicendo che cristianesimo e islamismo sono solo due strade diverse verso un unico Dio e che entrambe meritano il massimo rispetto. Venerdì 18 maggio 2007. È evidente che questo Dio dei Valdesi non è certamente il mio, perché è vero che il Dio trino delle Scritture ama tutti i popoli, ma è anche vero che Gesù Cristo è il solo che rivela il Padre, il solo che è morto per tutti gli uomini, il solo che dona la vita eterna a chi pone fede in Lui. Di conseguenza sono proprio queste sue caratteristiche distintive e uniche a proclamare Gesù superiore a Maometto, se non anche il fatto che Maometto ha commesso dei peccati, mentre Gesù è puro, privo di peccato, secondo la dichiarazione del Corano. Del resto, gli stessi musulmani non ritengono cristianesimo e islamismo due strade diverse che conducono allo stesso Dio, perché per i musulmani Maometto è il profeta superiore a tutti i profeti, e Dio non è trino. Per comprendere l'importanza di non pronunciare delle parole inutili, oziose o fuori posto, prendiamo in esame il capitolo 4 del libro di Zaccaria, il profeta. Zaccaria, come tutti i profeti, ha pronunciato spesse volte la frase "Così dice l'Eterno", attestando in questo modo che ciò che stava dicendo non erano sue parole, ma di Dio. Ma questo profeta ha un'altra particolarità, nella quale mi immedesimo, egli poneva continuamente domande a Dio per capirne il messaggio. Infatti, dopo aver visto un uomo montare un cavallo rosso e dietro al quale venivano altri destrieri, chiese: cosa significano queste cose? 1.9. Stessa cosa quando vide quattro corna e chiese: che cosa sono queste? 1.19. E così quando vide quattro fabbri e chiese: che cosa vengono a fare costoro? 1.21. Stessa reazione gli suscitò la vista di un uomo che aveva in mano una corda da misurare e al quale domandò: dove vai? In seguito, quando Zaccaria vide qualcosa che stava uscendo, domandò: che cos è? 5.6, come quando vide l'efa trasportata, chiese: dove portano l'efa costoro? 5.10. Infine, quando vide quattro carri, Zaccaria chiese ancora all'angelo: Signore mio, è questi, è in questa ottica che possiamo leggere il capitolo 4 del libro che reca il suo nome. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò, come si sveglia un uomo dal sonno. Mi chiese: Che vedi? Gli risposi: Ecco, vedo un candelabro tutto d'oro che ha in cima un vaso ed è munito delle sue 7 lampade e di 7 tubi per le lampade che stanno in cima. Vicino al candelabro stanno 2 ulivi, uno a destra del vaso e l'altro alla sua sinistra. Io ripresi a dire all'angelo che parlava con me: Che significano queste cose, mio signore? L'angelo che parlava con me rispose: Non sai che cosa significano queste cose? Io dissi: No, mio signore. Zaccaria è un profeta che sa tante cose, ma ammette anche la sua ignoranza. Per rivelazione dell'Eterno vede le cose, ma non è in grado di comprenderle. Stessa cosa capita anche a noi. Quante volte leggiamo la parola di Dio, comprendendone il significato linguistico, ma senza afferrarne il senso. Niente di umiliante. Piuttosto cosa del tutto umana. I pensieri di Dio sono il frutto di una rivelazione, e se la persona dello Spirito non parla, per noi è impossibile comprenderne il senso. La nostra intelligenza è incapace di afferrare il senso divino. Occorre una rivelazione, un rema, non un logos. Zaccaria continua il suo racconto. Allora egli mi rispose: Questa è la parola dell'Eterno, o Zorobabele. Non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti. Chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Le mani di Zorobabele hanno gettato le fondamenta di questa casa, e le sue mani la termineranno. Così tu saprai che l'Eterno degli eserciti mi ha mandato da voi. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose quando quei 7 là, gli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele? È vero che Zaccaria ha ricevuto la risposta, ma non quella che si aspettava, per cui disse all'angelo: Che significano questi 2 ulivi a destra e a sinistra del candelabro? Ma l'angelo rimaneva muto, faceva lo gnorri e così. Zaccaria scrive: Per la seconda volta io presi a dire: Che significano questi 2 ramoscelli d'ulivo che stanno ai lati dei 2 condotti di oro per cui scorre l'olio dorato? Ormai sembra chiaro che Zaccaria aveva bisogno di una spiegazione, ma l'angelo rispose: Non sai che cosa significano queste cose? Io risposi: No, mio signore. Allora egli disse: Questi sono i 2 unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Sembra proprio che l'angelo volesse a tutti i costi che Zaccaria confessasse la sua ignoranza, ma non è a caso che Dio voglia che i suoi figli, meno compresi i profeti, meno confessino di non sapere e di non capire, perché questo è il principio della sapienza. Infatti, chi pensa di aver ormai compreso come si svolga la vita, se pensa di non dover imparare più nulla di ciò che Dio ha da dire, e di queste persone ce ne sono, è un fallito. Innanzitutto perché le nostre illusioni si differenziano molto dalla realtà. La diversità più spiccante consiste nel fatto che a ingannarci molto spesso è proprio la cosa o la situazione della quale comprendiamo meglio il senso, e che proprio per questo crediamo di aver capito tutto. Così, un altro messaggio che i profeti hanno da pronunciare, a volte, è di non aver nulla da parte di Dio, e altre volte, nonostante abbiano rivelazioni, essi devono confessare la loro ignoranza al riguardo. A proposito, è alquanto significativo l'episodio concernente il profeta Eliseo, il quale, pur avendo ricevuto uno spirito doppio rispetto a Elia, e grazie al quale era in grado di conoscere i pensieri degli uomini, quando si trovò dinanzi alla donna shunamita che chiedeva udienza e che il servo voleva allontanare, disse: Lasciala stare perché la sua anima è amareggiata e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. 2 Re 4.27. Che figura, diremmo noi. A cosa servono queste riflessioni? Perché mettere enfasi sull'ignoranza dei profeti? perché questo si accorda con ciò che Gesù ha detto, e cioè che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni rivelazione detta fuori posto, di ogni parola vana, inutile o infondata. E questo quando avviene? Succede certamente nel corso della nostra vita normale, ma soprattutto nell'ambito del regno di Cristo. Ci sono persone che parlano del regno di Dio pensando di essere ricoperti di una autorità divina, quando invece riferiscono solo pensieri umani. Altre persone ritengono di avere sempre una spiegazione riguardo a ciò che succede nella vita, quasi che Dio si fosse consigliato con loro prima di mettere in atto i suoi piani, o come scrisse John Steinbeck nel suo libro La Valle dell'Eden. A proposito di Liza, una protagonista del romanzo, era ben noto che il signore Liza Hamilton avevano uguali convinzioni su quasi tutti gli argomenti. Niente di male nel conoscere la volontà di Dio, ma è terribile quando si pretende di saperla, perciò se non essere a conoscenza della volontà di Dio a volte è sbagliato, pretendere di conoscerla sempre è un errore senza eccezione. Quando avviene questo? Avviene soprattutto per quanto concerne chi ha dei compiti di guida in una comunità, chi ogni domenica ha il compito di leggere la parola di Dio e di commentarla. Com'è possibile avere sempre una parola, cioè una rivelazione giusta, fondata e utile meno da parte di Dio? Poiché la vita cristiana è vissuta di rivelazione in rivelazione, è possibile, anzi possibilissimo, che, come fu per Zaccaria, vi siano momenti nei quali sia più confusione che chiarezza. Così, molto probabilmente uno degli errori più grandi in cui incorre la Chiesa si verifica quando vi sono coloro che non parlano nel momento in cui devono farlo, e quando coloro che parlano dovrebbero invece tacere. Il compito del credente è di essere sottomesso all'azione della persona dello Spirito Santo e non di voler parlare da parte di Dio. Si deve parlare quando Dio vuole che si parli e tacere quando Dio non vuole che si parli. Leggiamo nei Vangeli che di fronte alla pressione del sommo sacerdote, perché Gesù parlasse, egli tacque. Mr. 14.61. Dunque coloro che hanno il compito di predicare l'Evangelo, coloro che scrivono libri in merito a Dio e Cristo, sono avvisati da Gesù che renderanno conto di ogni rivelazione che propongono se non è stata data da Dio. Tremenda responsabilità. Come può fare tanto bene una rivelazione giusta? Può fare altrettanto male un'opinione propria, anche se piena di morale. Gesù ci ha avvertiti, e quello che lui ha detto deve essere preso sul serio. Novembre 2007. Ellero.